Avanti Angeli, buonasera. E io mi ho finito di fare una saldatura adesso in questo microfono, voglio sapere come sta andando, va. Che gli ho rifatto, c'era rotto la, come si chiama? L'attacco della batteria, là, praticamente. C'era rotto quello lì. Praticamente quella plastica che c'è fuoriusciva al coso. Te l'ho messo già, però l'avevo messo solo in prova. E l'avevo messo con lo scotch, non mi piazzia. Avevo fatto un lavoro più ben fatto, col termorestringente e tutto quanto, fatto di lusso. Stavo per farne un altro di microfono, ma mi sa che adesso faccio raffreddare il saldatore e devo tutto a posto, non aggiungare. C'è da cambiare una capsula in un altro microfono, vediamo un po' come funziona. È più chiara questa, pure adesso te l'attacco un altro, memorizzati questa. Oppure questa, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi lasciamo questa qua. Faccio compreso, dai, mi viene anche meglio. Io vendo il microfono, saletta, master plus. Angeli, facci sognare! Ascolti Franco, la sorso, con chi stai parlando? Ora, Franco, ho capito, dico la sorso. Ma chi non mi senti con chi sta parlando? Franco, mi senti? Sì, io ti sento. Scappa, ciao. Come mai non ascolto a Gianni? Come, scusa? Come mai non ascolto a Gianni? È a vista di l'antenna, allora. Non servirà bicciata da Ruento. Non servirà bicciata da Ruento, l'antenna se non mi accosti. Aspetta, ci mancherebbe a Gerini. Mi arriva a bomba a Gianni. Angeli, ce l'hai il telefonino a portata di mano? C'è problema, fra tu ce l'hai il telefono a portata di mano. Scappa. Per farmi una registrazione mi voglio sentire con questa e con l'altra radio, per rendermi conto io come vado, dai, con questa e con l'altra. Allora, quella che ti ha fatto Angelino non è, non è sbagliata, perché io ti ascolto molto più forte con questa qua, è bellissima questa che stai usando adesso, ma anche l'altra è bella lo stesso, magari anche io perché più lontano ti ascolto ancora meglio di me. Sì, ti faccio le registrazioni, non ci sono problemi. Eia, fra, sono un costruttore di microfoni, questo l'ho fatto io. Sì, fatto, hai abbinato delle componenti. Ho abbinato dei componenti, ma avrei saputo anche fare. Cioè, sono andato, io non è che sia un tecnico, sono andato, ne ho fatto da due, ne ho fatto uno di microfono, praticamente. E ne ho fatto uno come si deve, da due che non funzionavano ne ho fatto uno che funziona. Va bene, ma anche io stavo provando per i microfoni oggi che ho tutti abbandonati e a quanto pare mi tocca rifarli tutti quanti connettori, queste cose qua, però non aggiungare, a parte il tempo, che ne ho tanta, ma tanto, ma non ne ho voglia. Va bene. Papà, se vuoi andare con la registrazione, qui registri anche Angelino, gliela fai sentire la registrazione. Ehi, capo, vai. Vai che ce n'è. Quello che hai parlato ti ascolti, Ehi, dai, va bene, prove tecniche di trasmissione, se stai registrando, questo è microfono 1, questo qua, stai registrando, sì, Franco. No, aspetta. Riprendi direttamente a registrare. Cappa, dai, dimmi quando sei pronto, dimmi via. Pronto, vai. Cappa, questo è il microfono 1, prove tecniche di trasmissione. Adesso attacco l'altro. Questo è il microfono 2, questo qui è il Savetta Master Plus. Adesso tocca parlare a Angelino, avanti Angelino. Fai, io vai, o me lo mandi su WhatsApp per sentire qua. E li ho già mandati. E che bravo che sei. Allora vado ad ascoltare, vedi là, così mi rendo conto, dai, anche io voglio, sì, io capisco il vostro parere, però anche io voglio sentirmi com'è. Calagala. Buonasera a voi, Gabbia. Angeli. Chiaro positivo, ciao Franco. Ciao Luca, mi hai ascoltato, come ha dato Giambi Radio? Io no, negativo, sempre la stessa. Capo, modulazione molto grossa, corde vocali grosse, questa ciò. Positivo caparroggio, tra lei, anche il camionario. Come forte? Mia. Ehi, chiatta. Ed è al minimo, c'è aumento guai. Va bene. No, sono così, meglio fa più bassa, va bene. Avanti cappa. Andà meglio, mezzugai, andà meglio, che beh. Ciao Giulio. Lo ascolti a Franco, Angeli. Adesso Angelo sei. Sei senza nulla, senza aiutino. Angeli. Va bene, ok. E beh Gianni, vanno bene? Ehi, ma lo sai che io la penso al contrario, mi piace l'altra di più perché è più squillante, questa c'ha più bassi c'ha. Quella che ti stava dicendo Angelino, sì, quella c'ha più bassi, mentre l'altra, l'altra delta c'ha più acuti alti. Cappa. Ma già se lo vedi tutti e due, là. Un po' uso uno, un po' uso l'altra, così non si bisticcia. Cappa, là. Va bene, dai. Adesso la devo fare un altro. Capsula che si adatti e vediamo un po' come esce. Perché quello là è un proxel e la capsula non mi piace. Anzi, se c'è qualcuno che ha una capsula di quelle di. Come si chiama? Di quelle di citofono. Che quelle riescono ben bene. E non si trovano, poi acciappano. Ma quelle piccole? Ce l'ho io. Ma pure la capsula di telefono, ciao già. Ce l'ho io già. Ciao. Sì, è una capsula, voglio provarle, dai, come vanno. Ma te la sto dicendo, la vuoi di telefono? Ma vanno bene quelli di telefono. Sì, una volta andavano bene. Se è stato cambiato idea, non lo so. No, c'è un moto zappa pure. Se vanno bene quelle verdi, quelle con la base verde. Già, se la c'è anche di moto zappa. Sì. Yeah. Pagata, e vabbè, io una volta l'avevo comprato nel mercatino delle pulci per prendermi solo la capsula, avevo comprato tutto il telefono, ma costava ribari 2 euro, una cosa del genere. Ho preso il telefono, ho tolto la capsula e me l'ho fatta, e c'è un bebè, però di quelli bianchi, quelli che c'erano prima. Di quelli ti do, una capsula di quelli telefoni bianchi a tastiera. Va bene, Giulio, da, va bene, non c'è problema. Quando ci vediamo, ma la dai, da. Sì, va bene, d'accordo. Finito coronavirus. Sono le migliori quelle, le capsule giù, le ho provate anche io. E beh, non vanno bene? Ce l'ho nell'MV4 io, quella lì. Appunto, io ne avrò, senza esagerare, ma ne avrò almeno un minimo 4 o 5. Ne ho, per cui... perché me l'avevano date tanto tempo fa una busta piena di telefoni dismessi, un amico della Telecom di allora, dai, se vuole capsule. L'altro giorno guardando, cercando in mezzo alle cose mie, ho trovato questa busta, e cosa c'è qua? Ho guardato tante cornette di telefono. Sì. Sì, io me le buscavo lo stesso, quando lavoravo me le buscavo. Quelle, tutti i telefoni che dismessi giù dove lavoravo io, li prendevo, dato il ruolo, li buttavo, li prendevo e portavo via solo le cornette. Sì, infatti io, infatti, allora, questi li butto, ma poi ci ho pensato, ma gira, le tocco le capsule e poi al limite il resto li butto. No? Angelino, mi ascolti? Angelo, lo ascolti a Giulio? Ho detto, lo ascolti Giulio? Attento Angelino, mi ascolti? Ok, ciao Angelino. Anch'io ti ascolto discretamente, non c'è problema. No, perché io per la zona di Alghero sono un po' negato come posizione, capisci Angeli? Magari l'antenna che è più performante adesso. Va bene Angelino, ma tu non sei proprio Alghero, magari è per quello. È fertile Angelino. No, aspetta, ad Alghero sono tutti chiusi, l'antenna sopra i palazzi, perché sono molto più alto di me, sono qua. Io però ho fatto l'aeroporto, sono tutti via e sono in piana, però sono aperto, non ho parte davanti. Sì, quello sì Angelino, quello sì, che sei tutto aperto lì. Ci mancherebbe, i palazzi non esistono. Ecco, positivo, dai, avanti. Come sto uscendo? Buonasera a tutti, come sto uscendo? Tutto strappato, si è proprio... questo è il vecchio, il faccio è vecchio, adesso ho abbassato un po'. Strappato, guardate la microfono. Guarda adesso, 1, 2, 3, provo radio. No, tutto strappato, si roba. Ora la batteria probabilmente ce l'ha puesta da zero. Ora, ancora l'ha strappato? Sembra che stai scavando. E la radio è molto bassa, no? La batteria è zero allora questa. La radio non è bassa, però è tutta strappata. Il segnale è basso, Robert. Il segnale è basso, sono 9 qui da me. Vabbè, ho un'altra radio, questo è il patch. 1, 2, 3, prova radio. Adesso com'è il livello microfonico? Basta, va bene. Ma brutta, come fai? È bassa, no, è bassa, però va bene. Bassa, aspetta che prova a sollevare, guarda adesso. Vai, però sollevato. Hola, prova radio. Adesso va bene. Come va bene come modulazione? Chiara? Sì, chiara, ma è bassa, capito, non è spinta un bel. Vabbè, posso alzare, guarda un po' adesso. No, bassa, bassa. Hola, prova radio. Così va bene. Adesso guarda, 1, 2, 3, prova radio. Aspetta Giulio, vai, cosa sta dicendo Giulio? Ho detto che qui da me è troppo bassa la radio. Anche il segnale è bassissimo, o Robè. Santiago Lope appena. Antenna, l'hai messa, Robè, non è che non hai commutato. Sì, ma questo è il patch, questo c'ha 3 watt questo baracchino. No, già il segnale suo, Gianni, già in antenna. Non è il segnale suo, capita, arriva 5 a me, arriva il radio 1. Vabbè, da me è vicino, ma il segnale non è che cambia molto. Magari con l'altra ha più watt, è normale che ti arriva più forte, fa, capito? Con l'altra mi arrivava 8, non quasi 9. Vabbè, non puoi paragonare 3 watt, l'altro ne davano 50, era un abisso c'è. Vabbè, comunque niente, abbassando va bene, però vabbè, sono in cuffia, però loro non ti sentono bassi, non lo so, riprovo, fai dei passaggi, cambia la batteria. Guarda, questo è l'Alan 48, questo come va? Con l'M93. Vabbè, stiamo parlando di altre cose. Questo è un Alan 48, con l'altro è un base, perché ho base della Apache col Turner più 3, però sicuramente c'è la batteria esaurita. Questo invece è un M93 con l'Alan 48, quel microfono che mi ha tolto Luca nel 2005, con la stessa batteria, c'ha 15 anni e sta sempre andando. Ciao Roberto. A tutti, comunque dai, sto facendo delle prove, sto girando anche gli altri baracchini, così lo facciamo camminare. Kappa, dai. Mi prendi Giulio. Ciao Giulio, ben sentito. Sì, vabbè, questo va meglio di andare dal faccio, questo e del radio soprattutto, questo va bene, però lo sentiamo sempre basso, va bene che il baracchino cosa 4 watt può avere. Vai, vabbè. Allora vabbè, quel patch funziona bene, però c'ho la batteria scarica del Turner, per cui probabilmente non funziona per quello, perché sicuramente era prima era una bella radio. Questa radio com'è? È chiara? Va bene? È brutta? Com'è? La radio questa è buonissima, è Santiago che è basso, è la portante fissa, sei Santiago 8 e mezzo, Mollomatti 9. No, guardate che la radio funziona, adesso la sto facendo girare, cioè che si senta bene, è quello lì. Sì, beh certo, no, la radio già è buona, la radio ci ascolto bene, ma c'è Franco che te lo può dire, a sorso, se sentirà forse un po' basso, ma penso che si senta bene ugualmente, vai Fra. Certo, la radio da poco fa ha migliorato, poco fa era radio 1, adesso ha già migliorato, già radio 5, però segnale da 5-6, si è molto abbassato il segnale. Sì, dopo, no, sto solo provando, dopo mi riattacco l'altra, la solita mia, da quella spinge un pochettino di più, c'ha una resa superiore. No, volevo vedere questo 48 se funzionava ancora, ma mi state dicendo che funziona. Sì, funziona, anche bene funziona. Eia, ok, qui c'è qualcun altro, oltre ho sentito Franco, Giulio, Gianni, Luca, c'è qualcun altro? Angelino c'è, da Alghero. Ah, Angelino, mi ascolti Angelino con questa? Ok, dai, anche io ti ascolto perfettamente, ascolto tutti, dai, non c'è problema. Dai, riprendo con l'altra un pochettino, magari mi sentite un po' meglio. Gianni! E lo sento basso basso, non riesco a capire cosa dici. Avanti, avanti! La radio è molto bassa, ma sento che stai parlando, ma non capisco bene cosa dici. Infatti non è qua. Questa come va Angeli, meglio? Grazie, grido. Ma sei stato in FM tu? No. E chi era in FM allora? No, vabbè. Dimmi giù, ma Angelino l'FM è andato. non credo, non lo so. Ascolta, ieri stavamo parlando di un fatto probabilmente di nuovo regolamento CB. Stavamo parlando dell'antenna direttiva e anche del microfono preamplificato, ma è vero che hanno cambiato la normativa, che si può utilizzare sia l'uno che l'altro adesso? Allora, adesso ve lo chiarisco una volta per tutte, perché questa discussione l'abbiamo avuto da tantissimo tempo. Voi siete a già voi, nel senso, tutti quanti eravamo aggiornati al vecchio decreto del 1973, quello quando hanno liberalizzato la banda cittadina. Nel 2008 è uscito la nuova legge, hanno aumentato la potenza dei radioamatori, la patente le hanno unificate, eccetera eccetera, non c'era più l'ordinaria, la speciale, eccetera, non c'era più il CV doppio per il conseguimento della patente, per cui hanno abrogato tutte le leggi che c'erano indicate nei decreti nella vecchia legge del 73. Nella legge del 2008 non figura come figurava prima, che non si potevano utilizzare le antenne direttive, si dovevano usare solo antenne di un quarto d'onda, per cui non c'è scritto che non si possono usare, non è che c'è scritto che le puoi usare, non c'è scritto che non si possono usare, però io, per non sbagliare, qualche anno fa, ho chiamato Cagliari e gli ho fatto questa domanda al direttore del centro, mi ha risposto una persona molto gentile e cordiale, mi ha detto che loro hanno fatto un'interrogazione a Roma, gli è arrivata una circolare chiedendo se si potevano utilizzare le antenne direttive, ha detto sì, si possono utilizzare perché non stai modificando la potenza dell'apparato, naturalmente devi utilizzare apparato omologato con tutte le certificazioni dovute. A riguardo dei microfoni amplificati, la stessa cosa ha chiesto, non c'è nessun problema, dice, prima di tutto considerando il fatto che al limite può dare qualche splatter e considerato il fatto che le frequenze sono talmente limitate le persone, perché ormai la banda CB, a parte questo periodo, non c'è più nessuno, prima non c'era più nessuno, parlo qualche anno fa, assolutamente si possono utilizzare, abbinate assolutamente a un apparato omologato, se te lo trovano con un apparato qualsiasi, anche se c'ha 4 watt, però non è omologato l'apparato, se non c'ha la dicitura norme, c'è decreto, eccetera eccetera, a quel punto ti sequestrano tutto, anche se c'hai un apparato, un baracchino di 3 watt o di mezzo watt, deve essere omologato, ok, chiaro il discorso? Sì. Cosa hai detto, Angeli, scusa? Stiamo parlando omologato l'apparato, il microfono non c'entra niente, il microfono mica ti cambia la potenza, la legge dice tu non devi avere più di 4 watt, anzi 5 watt in antenna di coso, e no, non c'entra niente del microfono omologato, non c'è nessuna omologazione del microfono, normalmente ci sono altri tipi di omologazioni per la EMQ, il discorso certificazione che non ti diano disturbi di altro genere, diciamo disturbi elettrici e cose, però stiamo parlando di un'alimentazione a 9 volt, che problemi ti può dare, perché l'altro giorno c'era una discussione proprio a quel fatto lì sulle antenne direttive, prima nel 73 la vecchia legge del 73 non si poteva, e dovevi addirittura utilizzare antenne di un quarto d'onda, le 5 ottavi non potevi utilizzare, mentre adesso è liberalizzata l'antenna. Non ho capito, allora naturalmente tutti dobbiamo essere in possesso del contributo di coso, il contributo annuale per banda CB e PMR, bisogna anche indicare, se uno c'ha il PMR è lo stesso contributo di 12 euro, per cui quello non c'è problema, se ti trovano in casa senza aver pagato quel contributo prendi una bella sanzione, lo devi avere per forza annuale, se lo paghi in ritardo ti paghi la mora in base a ogni mensilità dello 0,5% ogni mese che c'è di ritardo. Una sanzione, no? Non so quanto sia adesso l'importo esatto, perché parte da una cifra a cifra, qualche centinaio di euro sino a qualche migliaio di euro, adesso non mi ricordo esattamente, l'ho letto da qualche parte. Ok Giulio, è chiaro il discorso? Comunque aspetta un attimo già. Sì, ho capito benissimo quello che hai detto. No, siccome io stavo parlando l'altro giorno quando era così ieri mi sembra con Gianni e poi è intervenuto anche Claudio eccetera, e mi hanno detto appunto questo particolare, che l'antenna poteva anche non essere direttiva, e anche il microfono poteva essere un microfono amplificato. Io incuriosito ho guardato in rete e ho seguito un QSO di Roger K risalente al 2018-2019, e anche lì si sostiene che la direttiva e il microfono preamplificato non sono regolamentari, e appunto è questo che volevo chiarire la situazione. Poi che cosa ne so? Vai. Allora, aspetta che riprendo io. Allora, prima di tutto dobbiamo avere formazioni sicure, perché Roger K molte volte ci sono i sapientoni che lo sanno, e se tu c'hai dei dubbi prova a chiedere. Prima di tutto ti leggi la legge, e nella legge ti sfido a chiunque, perché abbiamo avuto una discussione l'altro giorno, se c'è scritto che non si possono usare, non c'è scritto da nessuna parte, come il fatto abbiamo avuto una discussione su se tu guidi con le ciabatte in macchina non puoi guidare, mentre se sei scalzo non c'è scritto da nessuna parte che non puoi guidare che scalzo, e la stessa cosa è per le antenne direttive. Non c'è scritto da nessuna parte che tu non le puoi usare, si parla solo di potenza, apparati di limitata potenza entro i 5 watt, questo dice la legge, non parla di nessun caso, nessun tipo di antenna. Prima si parlava di antenne di un quarto d'onda, in parole povere la Grand Play, sino a qualche anno fa, noi avevamo tutti le 5 ottavi, diciamo le hanno tollerate, poi si sono resi conto che no, che in realtà stavano scrivendo fesserie, alla fine hanno eliminato anche il discorso delle antenne. Su, io ti faccio vedere CQ elettronica, se tu ti guardi CQ elettronica, dove si informano bene, che è il quattro ruote delle, diciamo, della banda cittadina, una rivista importante, diciamo, non dice fesserie, hanno fatto proprio questa interrogazione qua, qualcuno ha chiesto e hanno risposto che si possono utilizzare. Ok, io sono rimasto un po' indietro a riguardo di questo fatto qua, perché non me ne sono più interessato, però continuo a dire che vabbè, Roger K può darsi anche che abbia scritto delle fesserie, perché si sa, sono sempre dialoghi e opinioni di varie persone, però non è solamente su Roger K che io ho trovato questa notizia, anche su altri siti appunto ho trovato sempre la stessa affermazione, che non si possono usare. Poi io ho cercato a fondo per vedere se trovavo la vera normativa e non ci sono riuscito. Non è che mi sai dare l'indicazione per vedere la normativa attuale, quella relativa all'anno 2020? Allora, la normativa 2020 non esiste, c'è il decreto legge, cioè la gazzetta ufficiale del 2008, adesso non ricordo se era l'articolo 145 qualcosa, comma, legge del Presidente della Repubblica, c'è scritto, sono 200 e passo a pagina, me lo sono letto tutto quanto, perché ci sono anche delle cose inerenti ai radioamatori, eccetera, eccetera, ed è, la prima cosa è, cioè, il presente decreto modifica il precedente numero, eccetera, eccetera, del 1973 e successive modifiche, quello annulla tutto quello che c'era prima. Quindi quando esce una legge che ti scrive così, vuol dire che tutto quello che c'era prima è stato abrogato e annullato. In linea massima quasi tutto è uguale, a parte le patenti radioamatori e altre cose, bande di frequenza che hanno aggiunto i blend plane delle frequenze, hanno modificato qualcosina, però te lo leggi sino alla fine, la parte inerente ai CB, e non c'è scritto da nessuna parte di riguardo di tipo di utilizzo di antenna, parla soltanto di potenza e di sanzioni, e boh, e sfida a chiunque dimostrare il contrario. Nonostante tutto, io avevo chiesto a Cagliari, perché avevo chiesto per altre cose che non c'entrano niente per il CB, ho fatto un'interrogazione, vedo, è arrivata una circolare da Roma, dal Ministero delle Telecomunicazioni di Roma, dove si possono utilizzare le antenne direttive, perché non sono indicate e non uso nella gazzetta ufficiale. Dopodiché ha detto, mi scusi, per i microfoni preamplificati, ha detto, i microfoni preamplificati non stanno modificando la potenza dell'apparato, l'unico problema che possono creare è lo sbattere del canale adiacente, però tu non stai modificando la potenza, talmente sono poche le persone, mi ha detto, ha aggiunto, dico le precise parole, talmente sono poche le persone che utilizzano la banda cittadina, per cui se tu sbatteri i due canali che cosa puoi fare, se non vedi nessuno, questo è il discorso tuo. Ha detto una raccomandazione, utilizzate solo apparati omologati con la targhetta bene in vista, poi c'è anche un elenco, se per caso hai preso la targhetta, c'è un elenco pubblicato dalla gazzetta ufficiale, ufficiali di tutti gli apparati, anche vecchi, dove c'è il tipo di apparato e ti dice se quello lì fa parte dell'elenco, perché uno può avere un 5 watt, un toccai degli anni 80, però se non figura in quell'elenco non fa bene, non può utilizzarlo. Sì, quello lo so, per quello già era aggiornato. No, non era aggiornato per il fatto dell'antenna direttiva, eccetera, anche perché tu mi insegni che se noi abbiamo un apparato, o meglio un baracchino di debole potenza, e se io ci metto un'antenna direttiva, questa debole potenza diventa una quadrupla potenza, non più una debole potenza, bensì almeno 20 watt. Ecco per quale motivo appunto volevo che fosse chiarito questa situazione. Vabbè, dai, scusate gli amici, vai Gianni. Io ho il parere che sul Roger Cup parlano persone come noi, ci possono essere quelle ignoranti, quelle informate e quelle meno informate, non è che sia una cosa da prendere in considerazione. Però vabbè, io ero sicuro perché ti ho detto, perché se no non l'avrei detto. Però a Natalino, quando sono andati a controllarmi tutto qua, quando hanno controllato anche l'alimentatore, se era cielo, beh, se non fosse stato marchiato cielo l'avrebbero sequestrato. Tutto ciò che è attaccato alla stazione, che non è marcato cielo, te lo prendo. Allora, naturalmente tutti gli apparati devi averli omologati, soprattutto quando c'è corrente 220, non è che devi un alimentatore cinese, non c'è l'omologazione, te lo possono sequestrare, ma quello è indipendentemente dal discorso di legge, perché lì stanno facendo il controllo sulla sicurezza, IMQ, l'istituto per il controllo della sicurezza delle apparecchiature elettriche, quello da qualunque parte. Teoricamente a casa tua devi avere il salvavita, avere tutte le certificazioni dell'impianto elettrico, ma quello è indipendentemente dal discorso della banda cittadina. C'è l'alimentatore, hanno controllato, vediamo se l'alimentatore è omologato, ma lì sono andati al di fuori delle loro competenze, perché loro devono controllare se, che tipo di apparato stava utilizzando. Però se a te vengono a farti un controllo e ti dicono a casa tua e faccia vedere la certificazione dell'impianto elettrico a norma, tu ce l'hai, penso Bogaienti vi dà. Io vi dico queste cose perché tra l'altro ho fatto anche mi sono informato per altri tipi di cose, perché non so se lo sapete, prima, anni fa, bisognava fare anche la dimostrazione quando montavi degli impianti di antenne, paraboliche, eccetera eccetera, dovevi dare una, come si chiama, non dire un'autorizzazione, una, come si chiama, con una comunicazione alla regione dicendo che tu avevi, come si chiama, autorizzato un apparato per l'utilizzo e la ricezione degli impianti di trasmissioni satellitari. Io sfido a un bel di gente se l'abbia mai fatto questa cosa, adesso ormai è tutto saltato, ma prima, parliamo negli anni 90, dovevi fare una comunicazione dicendo che tu avevi installato un impianto parabolico di tale dimensione per la ricezione della banda KU frequenza eccetera eccetera, e non ha mai fatto nessuno. Per quello ve lo sto dicendo, perché queste cose mi sono informato bene, e molte volte nelle riviste, e ve lo dico anche per altri argomenti, scrivono cose disinformate. Però fatemi leggere voi dove c'è scritto la legge attuale che non si può usare l'antenna, e poi ne riparliamo. Come ho fatto l'esempio delle ciabatte, tu non puoi guidare con le ciabatte d'estate al mare, però se ti togli le ciabatte e guidi scalzo nessuno ti dice niente, e la risposta che ti danno, non c'è scritto da nessuna parte che tu non puoi guidare scalzo, anche se è peggio guidare scalzo che scivoli più che con le ciabatte. Non è così, perché le ciabatte ti si possono impigliare, te ne possono uscire cose perché non sono bloccate, invece quando non c'è nulla ti denudi di meglio, specie vabbè se lo faccio io o no, perché c'è luce là sotto al piede e non andrebbe bene. Assolutamente d'accordo, però ti sto dicendo, non c'è scritto nella normativa, si sono dimenticati di scriverlo. Poi non so se poi abbiamo fatto delle circolari dicendo da aggiungere, attenzione, che non è stato scritto, però c'è questo discorso delle ciabatte. Io te lo dico perché c'era questo amico che me l'ha detto a lui apposta, questo della strada, ha detto, Robe, c'è un decreto, come si chiama, del codice della strada, non figurano di camminare scalzo, per cui noi non li possiamo sanzionare. Uno che me ne scende scalzo dalla macchina, io non posso sanzionare, anche se è più pericoloso, vedere di guidare con i tacchi. Secondo me tu sei cuocuomane. Sì. Ma comunque, vabbè, questa è da una cosa che appunto aveva un significato abbastanza così da non preoccuparsi troppo, siamo passati a una cosa un pochino più seria, perché guidare una macchina senza le scarpe adeguate ed accelerati, quello è proprio da pazzi. Non si può nemmeno fare il confronto, la guida di uno o delle senza scarpe. scarpe, o meglio con le ciabatte, con il discorso che avevamo per il fatto dell'antenna, è tutta un'altra musica. Comunque anche quello è buono a chiarire, ma questa è una cosa ormai risaputissima. Io penso che chi ha la patente queste cose le sappia, non poi se uno è scelerato è peggio meglio, che cosa ci vuoi fare? Ciao, qua, avanti. Ciao, buonasera a tutti. Io stavo ascoltando. Sì, ma ne abbiamo già parlato, Giulio. Io ho detto che se andavi sul sito del Ministero c'è scritto. C'è anche nella Gazzetta Ufficiale, ha ragione Roberto, l'ho visto. Parla tranquillamente di quello che hai detto tu. Addirittura ho letto anche, come ha detto Giulio, che parla che è ammessa a qualsiasi tipo di antenna, sia a polarizzazione verticale che a polarizzazione orizzontale. In questo caso è chiaro che la direttiva è ammessa, magari non so che tipo, come, quando, perché, non so, così. Non parla di microfoni, non parla di niente, di lunga, solo apparati di debole potenza, o per meglio dire ricettrasmettitori di debole potenza. Va bene, chi c'è in questa ruota? Sì, claro, io sono d'accordo, questo sono d'accordissimo, quello che è stato detto. Però io mi chiedo, ma qui è un controsenso, perché se io utilizzo un'antenna direttiva, l'apparecchio o il barattino, qualsiasi insomma ricettrasmettitore, con un'antenna direttiva, la potenza viene aumentata in maniera logica. Io quello che intendo dire, sicché il barattino non è più di debole potenza, è come che io abbia messo allora una semplicissima antenna, anche una boomerang, e mi sono messo un alimentatore lineare. Non posso usare l'alimentatore lineare, è lo stesso principio, io dico quello o qua, indipendentemente dal fatto che non se ne parli eccetera, e sono d'accordo, però è sempre un controsenso, non ritieni che sia così? Ma non lo metti in vasca con l'antenna? Posso intervenire un attimo, Giulio? Certo! Allora, prima le antenne erano un quarto d'onda. Il quarto d'onda aveva il guadagno di inferiore alla metà rispetto all'antenna a mezz'onda. Queste sono leggi fisiche. Un'antenna a 5 ottavi ha un guadagno mediamente intorno a 1,2 dB rispetto al guadagno di un'antenna a mezz'onda. Per cui anche una 5 ottavi, secondo il discorso tuo, cioè è una potenza in antenna, stiamo parlando, non sull'apparato. Noi dobbiamo misurare l'apparato, non l'antenna. Poi il discorso delle antenne direttive. La potenza irradiata in una direzione aumenta, nelle altre direzioni al contrario, nel posteriore addirittura diminuisce completamente, i valori molto più bassi, e lateralmente sempre di meno più disposti dall'angolo di radiazione, per cui il discorso stai facendo tu è già chiuso in partenza, solo in una direzione aumenta, ricordati, da lo sai, non te lo dico io, la direttiva dietro, la porta avanti dietro diminuisce di tanti dB, per cui a quel punto quello che stai guadagnando avanti lo prendi dall'altra parte, non ha un'irradiazione come la 5 ottavi omnidirezionale verticale. Per cui anche quel discorso che stai facendo tu non è che ci sta più di tanto, parliamo al discorso di potenze o no. Esatto. Ma cosa vuoi che ti dica? Non terrete, lo perde la metà. Però il discorso non mi certo sia poi tanto da non tenere in considerazione, perché se io sto parlando con te, vuol dire che sto comunicando con una certa potenza. Perché? Perché ti ho puntato l'antenna addosso, ti ho puntato. Per cui non vedo dove sia la differenza agli effetti dell'aumento di potenza. Poi che sia dovuto al baracchino o che sia dovuto all'antenna, sempre la potenza è aumentata in qualche modo. È quello che intendo io. È come aver messo un piccolo lineareto su uno. Una semplicissima anche antennina, niente, non mi sembra che cambi molto, secondo me. Vabbè, facciamo girare, vai Gianni. No, facciamo girare Franco Di Sosso e poi riprende Angelino. Dai, avanti, ciao Claudio. Avanti Franco. Oh, chi vuole intendere intenda, sono in camper. Avanti Luca. Giulio. Ho detto, chi vuole intendere intenda, sono in camper. Manda me. Ascolta, quel numero là non è giusto, quello che mi ha mandato. Ho provato a farlo e mi dice che è inesatto. Ma cosa fai? Lo devi copiare già. Aspetta, è quello lì, se mi ha chiamato stamattina, l'ha chiamato. Non so cosa dire. È quello che tu mi hai mandato, io l'ho copiato e l'ho fatto, ma no. Vabbè, non fa nulla, dai, la perché stava cercando un apparato, ce l'ho trovato per dire. Giulio, sì, la legge parla all'uscita dell'apparato, non in antenna, leggi bene, all'uscita dell'apparato non devono essere superati i 5 watt, apparati di buona potenza in cui all'uscita dell'apparato dovranno essere misurati non più di 5 watt, non parla di potenza irradiata in antenna, sono due cose diverse, per cui tu puoi avere anche un'antenna da 50 dB, li metti una direttiva a 40 alle 20 e c'hai 50 dB di guadagno, non vedrà nulla col discorso di quello che parla la legge, parla potenza dell'apparato, non potenza effettivamente irradiata, quella è un'altra cosa, e quella lì è riferita per altri tipi di trasmissioni, non sicuramente per le bande cittadine, perché nelle stazioni private, lì parla di potenza effettivamente irradiata, e lì c'è, no, come si chiama, si misura l'intensità di campo elettrico, ci sono dei valori che devi rispettare, perché in questo caso stiamo parlando di debole potenza, 5 watt, infatti li chiamano apparati di debole potenza, e in ambito cittadino, CB vuol dire city band, proprio ambito cittadino, tu puoi morire la tela che ti piace, non stai modificando la potenza dell'apparato. Già ho capito io, sì, questo discorso. Si dipende. Ok, io mettendo l'antenna vado oltre l'ambito cittadino, come stai dicendo tu. Certo, hai ragione, è una frequenza all'ambito cittadino, certo, questo lo sappiamo benissimo, però se utilizzo quel tipo la di antenna vado oltre il confine, ecco qual è il discorso. Perciò non è chiara molto la legge, secondo me. Vabbè, comunque dai, facciamo girare. Vai Franco. E ci sarà stufata, avanti Angelino. Buonasera, ben ascoltato. Sì, ma è così. Direttiva, fronte e retro, per esperienza, perde tantissimo segnale. Anche sul fianco, insomma, dipende. Però è un altro tipo di discorso. E vabbè, Giulio, te l'ho già spiegato. Anch'io ero rimasto un po' indietro, poi proprio da poco te l'ho detto, sono andato a vedere alcune cose che mi interessavano inerenti alle frequenze nuove che ci hanno assegnato e sono andato a spulciare anche questa nuova normativa che è già in decreto ministeriale da un po' di tempo, quindi è soprattutto sulla Gazzetta Ufficiale. Va bene, avanti Luca, riprendi tu, dai, fai girare. Stavo facendo un vostro pezzettino di gelato, là. Comunque, io penso che il 99,9% sono tutti fuori legge. Quello è giusto, sono d'accordo con te, Luca. Tu sei fuori legge. No, Bruduc, là, tu non puoi trattare chi si arrati, no. In realtà, quanti di noi il baracchino omologato? 3 watt, 2, 4 watt. Complimenti per questi discorsi. Se l'ascolto, vado di farti. Non mi mette buona la faccia del guascio, mi ha seduto. A te te ne dovresti portare via, a me non mi fanno proprio niente. È vero sì, ma c'è una differenza tra me e te, che a me non mi fanno niente proprio, anche se me lo trovano e anche se lo sto usando, perché la mia patente amatoriale parla da 0 a 30 MHz, quindi da 0 a 30 MHz c'era 27 e io in fase sperimentale ho provato la mia radio 27, cosa che tu invece non puoi fare, devi usare il baracchino Maragatti. Guardate che biglia che lui ha patente che stai a fare in con questa radio. Visto, però è vero, mi cazzo, parliamo seriamente, non sto dicendo un cazzate, c'è la legge è uguale per tutti, anche per te vale. Vabbè, a me si acciappano e mi fottono, ma si acciappano a te e io dico Prudu passo per i casini, io rimasto subito di te, poi sei poco ma sicuro, ma tu gli hai rimasti i casini come uno che non è... Non conoscono la legge, non conoscete. Cambia che discorso. Non conoscete la legge, se è vero che non conoscete la legge. Se non conoscete la legge, ti sto dicendo che a me, se mi trovano parlando con questa radio non mi fanno assolutamente niente, perché io in fase sperimentale, tanto è vero che io posso usare anche un baracchino che non è a norma CE, tu invece non lo puoi usare, leggiti bene la legge, siamo tutelati al 100% la radio amatoriale, hai capito? Perché noi in fase sperimentale possiamo usare qualsiasi tipo di radio, capito? In frequenza naturalmente che puoi usarle, io che posso usarlo in tutte le frequenze, non mi fanno assolutamente niente, capito? Perché ho la patente di Stato, tu invece non puoi usarlo proprio, non puoi manco detenerlo, a te fa così bene da Recani, a me invece mi va di più lunga, perché non mi possono dire niente. È 40 anni che io uso, da quando sono diventato l'animatore proprio, per non avere rotto le balle di questo genere. Leggete le cose prima di parlare. Quando le leggete siete sicuri di quello che avete detto, allora potete parlare. Un radioamatore può usare qualsiasi tipo di radio in qualsiasi frequenza, ok, sia in banda cittadina che in banda amatoriale, può usare qualsiasi tipo di radio. In banda cittadina o da altre parti, in fase sperimentale, può detenere e usare qualsiasi tipo di radio. Leggete prima. Perché tu devi fare la concessione, se c'è la patente allora, per parlare nella banda cittadina, devi pagare anche 12 euro oltre la patente? Perché lo devi fare? Perché tu devi attenersi alle leggi del CB con la concessione, e con il CB devi parlare con gli apparati, con i barattini omologati, devi parlare, no con quale radio che stai parlando tu. E anche io naturalmente, anche io devo venire, a me addirittura mi sicuramente già di tutto, ma te. Claudio, aggiungo io dopo, ti dico qua. Fra, non è come stai dicendo tu. La concessione io ce l'ho dal 1900, avuta e continuerò ad averla. Capito? Continuo ad averla. Perché non me ne frega niente, è chiaro che e poi la concessione è una concessione di diritto, non è una concessione di uso come la mia radioamatoriale, perché se io chiaramente esco in macchina, vado in macchina, vado a Cagliari in macchina, decido di mettermi una radio in macchina, è chiaro che devo avere i documenti per avere il baracchino in macchina. Però c'è anche questo, come ho sempre fatto, io invece di mettere il baracchino come metti tu e portarti la concessione appresso, io ho la licenza, la patente fotocopiata, autenticata sempre in macchina, e mi metto il 440, il 140 o il 430 sopra il sedile, cosa che tu non puoi fare invece, capito? E posso parlare nel tragitto, posso anche parlare nel canale 5 con i camionisti, chi me lo vieta, mi fermano e mi dicono dove lei stava parlando, e quindi qual è il problema? Qual è il tuo problema? Come si fa, futidini? Non so più nato a rimani io, se permetti. Quindi le regole sono regole per tutti, giustamente. Ma noi abbiamo un altro tipo di regolamento aggiunto a quello a quello che hai tu. Io in fase sperimentale posso usare, io adesso sono entrato per fare una prova per vedere se la mia radio funziona anche in 11 metri. Beh, qual è il problema? Cosa volevi dire, Roberto? Allora, posso aggiungere una cosa? Calabria ha detto delle cose giuste. Allora, se leggete, ma qualcuno lo saprà già, lo rammentiamo, cosa serve il radioamatore e a cosa serve la stazione del radioamatore. Per sperimentazione e ricerca delle telecomunicazioni. Lo scopo principale del radioamatore è quello. Poi tutto il resto viene dopo. Possono provare antenne, baracchini, qualunque tipo di apparato, perché fanno delle sperimentazioni. Possono provare delle frequenze, naturalmente frequenze abilitate. Adesso ne hanno aggiunto qualcosa. Lui sta provando una radio, mi costruisco un baracchino e provo un baracchino, non è detto deve essere omologato. Le prime sperimentazioni radio le hanno fatti i radioamatori, poi sono nato, tutto il resto è nato dopo. Questo è lo scopo del radioamatore. Poi se uno si mette a fare il QSO con un apparato HF, teoricamente non lo potrebbe fare, però come fanno a giustificarlo che lui sta facendo QSO? E lui, io sto provando la radio, ho costruito un baracchino da 100 watt, sì, da 500 watt posso attacco lì e mi provo col baracchino di lì, e chi mi dice niente? Non penso che qualcuno si metta a giustificare questo discorso. Ma scusa Robè, ma se si mettono lì e lo registrano, non scoprono che sei, ti registrano oggi, ti registrano domani, dopodomani, ancora tutta la settimana, e cosa fai? Stai facendo prove di baracchino? Sì, lo posso fare, vita naturale durante io. Come usci fra, se li tendi invece lì, a futtidini, fatti portare, se ti sto dicendo che non sono nato ieri, quindi ho appartenuto per anni, per tanti tanti anni, appartengo ancora a diverse associazioni dove a me mi conoscono soprattutto a Sassari, è gente che parla con me a livello di riunione, non ha nessun problema a confrontarsi e parlare di queste cose, capito? Quindi fregate, non è così. Ho detto che tra me e voi c'è una differenza, che io posso usare e detenere qualsiasi tipo di cosa, voi no, voi dovete andare a norma c'è, e boh, non si discute, non è un problema di presunzione o di gelosia, è così, e la realtà è quella, le regole sono quelle. Io posso usare tutti i santi giorni nello stesso canale, parlare con voi e continuare a controllarmi la radio, continuare a fare quello che mi pare piace, nessuno me lo può impedire, perché nessuno mi può dire che io sto facendo questo, io sono in fase di sperimentazione e devo vedere se la radio va bene, e posso stare giorni, giorni, mesi e mesi sempre parlando, non c'è nessun problema, non me lo impedisce nessuno, fra, informati bene perché è così, a futti di. Sono contento per te. No, sono d'accordo. Non devi essere contento per me, perché a me non me l'ha regalata nessuno la patente, ho studiato e me la sono presa, capito Gianni? Non sono andato alla città mercato a comprarmela, ho studiato per mesi e mesi di preparazione e me l'ho fatta perché mi interessava farmela, tant'è vero che io forse sono l'unico radioamatore che non me ne ha fatti nulla di nessuno, e questo si sa, Sassari, no? Per tutti i colpi che ho sempre preso, sono un radioamatore che non me ne frega di essere radioamatore, mi interessa avere la documentazione, le radio e tutto ciò che è inerente alle telecomunicazioni in regola, io sono in regola, non me ne fatti nulla di nessuno a me. Perché da Bricco? Ma va. Io capo, sono Bracco, l'amico che ha modulato per l'ultima ragione, purtroppo, anch'io sono radioamatore, anche se entro col nome di Bracco, però c'è una roba, attenzione, anche quelli diciamo che usano gli apparati CB, mi sembra che ci sia anche per loro una licenza, adesso mi ricordo qual è comunque, una licenza semplice che possono chiedere, e non mi ricordo come si chiama, anche loro diciamo possono modulare, se hanno questa licenza, se non ce l'hanno no. No, no Giovanni, non possono modulare, quella è l'SWL, e tu fidati, io ce l'ho appesa qua davanti a me, 621 Cagliari, datata 1981, ok, 621 Cagliari, datata 1981, 1 agosto 1981, ed è una licenza SWL che vuol dire che puoi detenere qualsiasi tipo di ricevitore per ascoltare le bande amatoriali, e boh, stiamo parlando Giovanni di un'altra cosa, ma evidentemente qualcuno, boh, vabbè che tra i CB e i radioamatori c'è stato sempre questa tritta, ma io non c'entro niente, io ho studiato, me l'ho presa perché mi interessava farlo, allora mi interessava farlo, ma penso di non aver mai dato adito di supremazia o di leggerezza in nessun modo, ok? Quindi chiudiamo questo discorso, perché a me quando arriviamo a discorsi di questo genere mi può anche dar fastidio alcune cose non vere. Faccio girare, avanti Giulio. Ok, bravo, dai, comunque. Va tutto bene. Arriva il giorno che ci fregano tutti, vabbè, ho compreso. Per cui, da oggi, tutti quanti con la marchio c'è, da oggi, va bene? Vai Gianni. Anche la macchina adesso è malata a CEME, la macchina che guidi, se no non puoi circolare Giulio. Non è possibile. Se siamo capisani, sì o no? Gianni, avanti, mi prendi. Ma Giulio, ma se camigiani bisogna prima sapere di cosa si deve affrontare e di cosa si deve parlare, senza accusare né radioamatori e né nessuno, ok? Se uno non è sicuro di quello che sta dicendo, si deve prima informare bene e poi può dire quello che le pare e piace. Allora siamo tutti d'accordo, io sono Claudio Sparviero il 27 e sono IS0 di FB come radioamatore, capito? Posso anche, addirittura, Roberto lo sa, posso anche farmi chiamare IS0 di FB anche il 27, non ne ho problemi, hai capito qual è la differenza? Giusto! Guarda, gli esempi la legge del più forte, no? CB contro radioamatori, radioamatori contro CB, me la futta sei a me, né dei radioamatori né CB, io sono a casa mia, nel radio tutto quello che ho è a disposizione di chiunque possa dire il contrario, non ho nessun problema, ciao Dore Squalo. Buonasera. Giusto Claudio, ha detto giusto. Claudio. Dimmi. Comunque probabilmente, Bracco, Giovanni stava dicendo un'altra cosa, non quello che hai capito tu o che possono aver capito. Lui parlava prima, adesso non è neanche più obbligatorio, l'importante è avere il contributo che paghi. Prima bisogna fare una dichiarazione di, come si chiama, di possesso di apparati, si indicava il tipo di apparati. Ormai da qualche anno non è più obbligatorio, forse si stava riferendo a quello. Parliamo di cibi, per la banda cibi dovete indicare che tipo di apparati, almeno quando sono entrato io l'avevo fatto nel 2004 scrivendo che tipo di apparato avevo, ne potevi mettere quanti ne volevi e poi se le aggiungevi non c'era bisogno di comunicarlo. Questa comunicazione non è più necessaria, basta soltanto pagare la concessione, quella è assolutamente obbligatoria, perché se te lo trovano in macchina e non hai appresso la concessione, anche se l'hai pagata ti prende la contravvenzione. Guarda, io ti dico una cosa, poi chiudo, perché ripeto, non voglio affrontare questi discorsi un po' così proprio per ribadire ciò che ho detto poco fa, no? Che uno prima deve essere informato. Io quando mi sono spostato per tre anni e mezzo da via La Malfa a via Giovanni Pasqua, ho dovuto fare una comunicazione scritta al Ministero delle Telecomunicazioni proprio per conoscenza al distretto appunto della Sardegna, che è quello di via Brenta Cagliari, chiedendo il nulla osta di spostamento di stazione. Tu che hai studiato, che sei andato a dare l'esame, dovresti saperlo, no? Di cosa sto parlando, perché uno è stazione di amatore e l'altra è stazione di amatore, sono due cose veramente diverse. Ho voluto chiedere un nulla osta per lo spostamento della stazione radio, perché per noi come fanno i CB, prendono il baracchino da via Giovanni XXIII, vanno a via Cavour, da via Cavour vanno, per noi non questo, non è ammesso, hai capito? Perché il ministero a Roma sa da dove tu stai trasmettendo, che antenne hai, sanno tutto di noi, tutto, e che radio stai usando. Io ho dovuto fare, ti ripeto, nulla osta con chiedendo lo spostamento della stazione di Radio Amatore da via Ugo La Malfa a via Giovanni Pascoli 83, elencando lo spostamento delle radio che stavo spostando, quindi ho elencato tutto ciò che ho spostato da qua a là. Viceversa, quando sono rientrato qua ho richiesto nuovamente lo spostamento, hai capito? Quindi non pensate che sia una cosa così facile fare Radio Amatore, ci sono tante regole ben precise, perché se a me vengono in via Pascoli e mi trovano tutta questa roba, dice questa roba perché è qua? Chi mi fa vedere l'autorizzazione di spostamento della stazione da Radio Amatore? Se non ce l'hai c'è una multa di 600 euro e la sospensione da 3 a 6 mesi della licenza. Quindi stiamo attenti a quello che stiamo dicendo. Io l'ho fatta, vabbè, quando abbiamo fatto, mi pare che io e Gianfranco l'abbiamo fatta, perché ogni 10 anni c'è il rinnovo. Nel rinnovo devi appunto scrivere tutto ciò che hai in possesso e in uso, ok? E loro ti autorizzano, che si chiama autorizzazione generale, quindi non sono documenti, un conto corrente da 12 euro, trombone in busciacca e viaggi buguro baracchino e altri paddi. Ci sono regole ben precise per Radio Amatore, stiamo attenti. Claudio, io non sto parlando di Radio Amatore, parlavo di CB. Addirittura il Radio Amatore deve dire quando sei in un'altra stazione, già lo sai, non te lo dico io, che sei in un'altra stazione. Se sei mobile devi dire che sei baratto mobile, eccetera, quando dai il nominativo, quello è normale. Io parlavo una banda CB, banda cittadina, se tu ti metti il baracchino appresso, devi avere la concessione appresso, il contributo annuale, lo devi portare appresso, se no ti mettono la contravvenzione, solo quello, non era assolutamente riferito all'adeguatore, è come che c'è la residenza, se ti sposti devi comunicarlo per forza, ci mancherebbe. Mentre tu ti porti appresso il tuo conto corrente a 12 euro, io non aggiungo a poco di documentazione, ha fatto una valigia, venivo per viaggiare in macchina con la radio, non è così, dai. Bisogna documentarsi prima. Avanti Gianni, riprendi tu e vai per Giulio, vai per Angelino, vai per chi vuoi Gianni. Ehi, vai avanti Angelino, dai, riprendi tu che c'è il parcheggio. Io non ho voglia di fare discorsi impegnativi, sono un po' mezzo dormito. Ciao,